Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza, giovedì 21 maggio del 2015. Siamo all'appuntamento con il cinema di Visionari tutti i giovedì su queste frequenze. Potete ascoltarci in diretta sugli 87.9 in modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal sito internet della radio, che è ondarossa.info. Sull'home page c'è Ascolta la diretta. Per quanto riguarda le notizie sulla scaletta di quest'oggi, ma anche sulla trasmissione più in generale, potete consultare il sito della radio alla voce Trasmissioni Visionari, la pagina Facebook di Visionari, mentre per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Dal 1977 libera da padroni e pubblicità, la voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. Potete contribuire a farla vivere anche voi, ed uno dei mezzi è la sottoscrizione sul numero di conto corrente postale 61804001, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56, 00185, Roma. Eccoci in collegamento con Angelo Loi, regista del documentario L'Infedele, che ho notato, in quanto era uno dei documentari selezionati per il Via Emilia Doc Fest nello scorso autunno, e ho preso contatti perché mi interessava questa storia. Intanto, Angelo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti. Raccontaci un po' di questa storia. Beh, la storia è una storia abbastanza intima in realtà, perché l'infedele non è altro che mio suocero, padre di mia moglie, che è tunisino di nascita, e che a un certo punto della sua vita, circa 10 anni fa, lui abitava a Roma da tanti anni, però aveva problemi con l'affitto, insomma aveva un pochino di soldi da parte, andò in Sabina, un paese della Sabina che si chiama Tarano. Lui da solo, insomma, un intellettuale laico, molto laico, tunisino, però si è fatto molto ben volere da questa piccola comunità, che poi tradizionalmente è molto conservatrice, direi quasi ai limiti della decenza. E per consigliere che a Tarano ci sono ancora i fasci littori sui numeri civici delle abitazioni, ecco, per capire. Quindi diciamo, chissà che succederà a quest'uomo in questo contesto. E quello che è successo è che in realtà è stato molto ben accolto, l'hanno fatto signore del paese, e poi è cominciata questa campagna elettorale, e io non potevo, insomma, facendo questo lavoro, ho detto no, qui insomma nascerà qualcosa, e quindi ho seguito tutta la campagna elettorale fino alla sua elezione. Lui è diventato il primo sindaco magrebino d'Italia. Mm-hmm. Dopodiché questo materiale, che è rimasto lì per qualche anno, che non mi sembrava abbastanza, volevo dargli un respiro più ampio, diciamo, ho avuto la possibilità di essere ampliato dai fatti della primavera araba, dove Tuemi, mio suocero, si è molto entusiasmato da questa rinascita del suo paese e quindi si è coinvolto nei fatti della primavera araba. Quindi diciamo, il documentario racconta in parallelo queste due vicende, quindi processi, se vuoi, dei processi democratici sulle due sponde del Mediterraneo, su scale diverse. Sì, sì. Senti, com'è stato il rapporto con il paese e questo cambiamento, insomma, in un paese così, come lo descrivevi, reazionario, questa evoluzione che ha portato all'elezione a sindaco di questa persona? Ma sai, Tuemi è una persona che ragiona sempre su scala molto ampia, essendo una polide, veramente un cittadino del mondo che ha vissuto in Tunisia, poi in Francia, ha studiato, poi in Italia, ha sempre cercato di interpretare anche le realtà piccole su una scala più grande. Quindi lui è, in qualche modo ha capito le dinamiche all'interno del paese, le faide anche tra le varie famiglie, e si è posto un po' come una figura super partes, che in realtà non aveva nessun tipo di interesse economico, ma aveva in realtà l'interesse a cercare di sviluppare questo paese dove lui era arrivato, perché è un paese dove i giovani scappano, dove insomma la realtà si impoverisce quotidianamente di figure umane e di possibilità culturali. Quindi lui ha portato questa ventata di energia, direi io, ecco, di energia molto, insomma, per me molto bella, molto accogliente, molto comprensiva, e questo è stato sentito ed è stato apprezzato. Poi chiaramente dopo 5 anni si sono anche resi conto che in realtà lui non è uno che cede a compromessi, a anche diciamo a politiche un po' più inquinate, ecco, diciamola così, e quindi non è stato rieletto. Però insomma questa esperienza è stata molto bella e lui ancora vive lì, insomma, ottimi rapporti tra l'altro con i cittadini. Senti, è stato molto bello perché poi è stato un movimento, quello pro Tuemi, quello che diciamo l'ha portato alla elezione, è stato un movimento molto femminile, sono state soprattutto le donne del paese che hanno combattuto contro l'amministrazione precedente e che l'hanno sostenuto molto in questa sua battaglia. Quindi era un po' una specie di cavaliere nordafricano che viene ben accolto dalle comari nostrane. Insomma, era una vicenda che mi interessava da vari punti di vista. Okay. Senti, durante il suo mandato quali sono i provvedimenti, per esempio, che hanno inciso di più nella vita del paese? Guarda, lui ha fatto, vabbè, a parte delle piccole cose tipo l'ascensore per gli anziani, essendo un paese soprattutto di anziani ed essendo arroccato su una piccola collina, era necessario riuscire a facilitare l'accesso agli anziani sia per andare al bar che era sotto sia per tornare a casa, per queste piccole cose. Però lui ha provato a organizzare, ha fatto anzi delle settimane di teatro, ha organizzato una settimana arabo-palestinese, israelo-palestinese, quindi ha invitato gruppi sia palestinesi che israeliani per insomma nel paese. Poi ha provato a organizzare un festival, ha scoperto degli archivi di un compositore sabino del 600 e ha fatto in modo che un direttore di orchestra si occupasse di questi testi, ha fatto un concerto nella chiesa di Trano. Insomma, lui si è mosso soprattutto su un ambito culturale, anche se poi giornalmente le sue 12 ore che passava il municipio erano dedicate alle piccole frane, ai piccoli problemi che un paese come quello può avere. Okay. Senti, per dopo il Via Emilia che percorso ha fatto il tuo documentario? Guarda, è stato recentemente al Festival del Cinema Africano d'Asia e d'America Latina di Milano. Sì. E poi è stato al Cinemovel, insomma ha partecipato a una quindicina di festival. Soprattutto una cosa molto bella è che è stato il film che ha rappresentato l'Italia alle giornate del cinema europeo in Tunisia, quindi siamo stati invitati a fare un tour di proiezioni in Tunisia ed è stato molto interessante vedere l'accoglienza di Tuemi, questo personaggio che da un punto di vista nordafricano ce l'ha fatta, no? Se vogliamo, perché addirittura un'esperienza di migratoria molto di successo, anche se poi lui non è che la vive così, però effettivamente vista da lì, e quindi è stato accolto come una specie di profeta. Gli hanno chiesto ma di rimanere, che si candidasse per le elezioni tunisine, insomma è stato un bellissimo tour. E per lui anche un'occasione, diciamo, anche per verificare lo stato del suo paese. Senti, la curiosità è anche rispetto, ecco, all'immagine che hai dato della primavera araba nel tuo documentario. Sì, ecco, lì io diciamo l'ho vissuta attraverso gli occhi di Tuemi. Tuemi va a Tunisi e non riesce a votare, cioè lui va apposta per votare ma non lo fanno votare, il che il suo ragionamento poi è quello che continua a sostenere su Facebook, e che comunque queste elezioni sono state molto problematiche da diversi punti di vista, che l'apparato precedente di Ben Ali ha retto anche durante quelle che erano state le elezioni, e quindi diciamo il permesso per votare, anche le liste elettorali, insomma lui riscontrava una serie di problemi che non erano stati né affrontati né forse di proposito risolti. Quindi diciamo, il fatto che lui non riuscisse a votare era anche emblematico di un personaggio come lui, che è sempre infedele, ma è infedele a quello che gli altri, diciamo, alle categorie in cui gli altri lo vogliono mettere. Mm-hmm. Per cui è imprendibile da questo punto di vista. Il suo ragionamento è sempre molto avanti. Noi che viviamo la prima era araba, diciamo, finalmente un processo democratico, in realtà lui è già molto ben preparato intellettualmente e culturalmente per farti vedere che in realtà tutto questo processo è ancora in una fase estremamente embrionale, e quindi prima di entusiasmarsi ci mette molto. E questo forse anche attraverso il film, nella sua esperienza a Tunisi, racconta, diciamo, uno sguardo così scettico, per dirlo con un eufemismo. Senti, per saperne di più, anche per un eventuale calendario di proiezioni in rete, dove si può cercare? Purtroppo io sono molto resistente a... Comunque in rete si trova, se uno digita l'infedele Vimeo, lo trovi su Vimeo, e io l'ho lasciato lì, è libero, è per tutti, non okay. C'è password, si può vedere tranquillamente, basta digitare l'infedele Vimeo che vi appare lo screener online. Ok, bene, Angelo, io ti ringrazio, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie, a presto, a voi, grazie, ciao. Ciao. Angelo Loi, regista del documentario L'infedele. In collegamento con Teresa Sala, regista del documentario Avanti Artigiani. Teresa, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ciao Federico e ciao agli ascoltatori. Allora, anche il tuo lavoro era tra quelli selezionati dal Via Emilia Doc Fest, mi interessava anche in questo caso l'argomento. Avanti Artigiani, raccontacelo un po', Teresa. Allora, Avanti Artigiani, l'idea di raccontare che cosa, la condizione artigiana, cosa sta succedendo dal punto di vista dell'artigianato in Lombardia oggi, partendo dall'immagine molto romantica che quasi tutti abbiamo dell'artigiano che lavora nella sua piccola bottega con ancora tecniche molto tradizionali, chiedendosi invece se questa immagine che molti abbiamo, da cui anche il lavoro è partito, diciamo, ancora oggi esiste, o se no che cosa è diventato, che cosa pensa di diventare, ancora è una risorsa per questo paese oppure no. Mm-hmm. Diciamo che questo è un po' il tema. Abbiamo incontrato 20 aziende tra Milano e le altre province della Lombardia, e abbiamo scoperto che il territorio, la situazione è veramente molto variegata, c'è veramente di tutto, c'è ancora chi lavora da solo nella sua piccola bottega in maniera completamente manuale, c'è invece chi utilizza delle tecniche modernissime, produce prodotti che vengono comprati anche in Giappone o dall'altra parte del mondo, e quindi è stato un viaggio, prima di tutto un viaggio molto interessante. Ecco, a questo proposito volevo chiederti, dicevi dal singolo artigiano che lavora in proprio, in piccolo, ecco, da che dimensioni andiamo a che aziende arriviamo? Andiamo appunto da proprio la bottega artigiana. Allora, un'altra caratteristica è sicuramente il fatto, una tradizione radicata, quindi la singola bottega che esiste da 100 anni, che si tramanda di padre in figlio, e in cui ancora si lavora appunto con tecniche molto molto manuali, in cui la manualità è ancora molto importante, le tecniche magari sono molto antiche, molto particolari, e arriviamo fino ad aziende di 15-20 dipendenti, a consorzi. Una delle realtà forse più particolari che abbiamo incontrato è un consorzio di forbiceria e coltelleria che sta nelle valli del Lecchese, e che sono 50 piccole aziende che si sono consorziate, sono uno dei più grandi produttori di coltelli e forbici al mondo. Quindi veramente, e in tutto ci lavoranno 300-400 persone, quindi le dimensioni sono molto varie e variegate. La spinta iniziale come è partita? Qual era l'idea? Ma allora, l'idea devo precisare, l'idea non è stata mia, io su questo progetto sono stata chiamata. L'idea è nata dalla Fondazione Bassetti, che è una fondazione di Milano che si occupa di innovazione in campo del mondo del lavoro, e proprio loro si sono chiesti che cosa oggi è l'artigianato e che futuro, e se ha un futuro, che futuro può avere. Da lì hanno contattato me, hanno contattato il Centro Sperimentale di Cinematografia per cui lavoro, e abbiamo cominciato a pensare come potevamo come andare a incontrare le realtà del territorio e come poi raccontarle. E l'idea iniziale era la convinzione di trovare un mondo veramente molto all'avanguardia, cosa che non è esattamente vera, cioè forse la forza, almeno dalla mia esperienza, quello che posso dire è che la forza dell'Italia e di questo mondo in Italia è molto legata a un saper fare antico, direi, a un modo di approcciarsi, di concepire ogni progetto come ogni volta una sfida nuova. È questa la vera forza, non tanto un'innovazione che c'è, ma è solo una parte di questo mondo. E da lì in poi abbiamo trovato queste 22 aziende, siamo andate a incontrarle una prima volta e poi abbiamo dedicato una o due giornate di riprese a ogni azienda, e intervistando, diciamo, chi le aveva create e filmando le varie fasi di lavorazione, gli ambienti di lavoro, proprio il lavoro artigiano. Senti, le modalità più interessanti per quanto riguarda la salvaguardia di questo patrimonio dell'artigianato, della manualità in Italia? Ma sicuramente oggi quello che paga è saper riconoscere che il mercato è globale e che quindi l'abilità italiana, un certo modo di fare è assolutamente apprezzato e riconosciuto all'estero. Sì. La capacità degli artigiani oggi deve essere quella di sapersi comunicare, sapersi far conoscere anche all'estero, perché è un dato di fatto, il mercato italiano oggi si è molto ristretto, quindi chi prima lavorava molto sul territorio oggi deve pensare di lavorare in modo più ampio. Poi ci sta sempre inventare nuovi modi di produrre, di essere competitivi, diciamo, però secondo me quello che emerge anche nel documentario, quello che è emerso incontrando queste realtà, era stata la loro capacità di leggere il cambiamento del mercato al momento giusto e sapersi adattare. Sì. Senti, che ne sarà del tuo lavoro? In rete c'è un luogo dove poterne sapere di più anche rispetto a un calendario di proiezioni? Allora, sul sito della Fondazione Bassetti vengono comunicate volta per volta le varie proiezioni e così. Esiste un trailer online sia sulla mia pagina Vimeo Teresa Sala che sul sito della Fondazione Bassetti. Da lì poi devo dire, non lo sto gestendo troppo io la diffusione, diciamo, in proiezioni. Io mi sto più puntando su festival e rassegne. Ok, un'altra curiosità, e con questa chiudiamo: i giovani rispetto, ecco, al mondo dell'artigianato, che realtà hai trovato? Molto vivaci, interessanti, non tantissime aziende giovani, ma quelle che ci sono molto fresche e vitali, con una visione anche dell'ambiente di lavoro molto, molto curato, mentre invece le vecchie generazioni, cioè il capannone, fabbrichetta e cemento, e così invece c'è una cura molto, molto maggiore, c'è sicuramente un entusiasmo e una voglia di fare dei giovani molto promettente, interessante, e poi anche lì la capacità sempre di coniugare materiali e tecniche magari vecchie o comunque ampiamente sperimentate in dei decenni precedenti, con visioni e proposte più fresche, diciamo. Bene. Teresa, io ti ringrazio, è stato un piacere. Alla prossima a questo punto. Grazie, grazie, buona continuazione. Ciao, ciao. Ciao. Teresa Sala, regista del documentario Avanti Artigiani. Tina, mi ha mai visto in televisione? Io sono l'uomo della crema da barba dell'oltrespazio. Vuoi sentire la guancia? Portiamo aiuti morali e materiali ai fratelli poveri del continente. L'ultima volta che i vostri connazionali sono venuti a consolare il continente, lasciarono una spilza di indios morti, ma convertiti naturalmente. Che cosa ci fai qui? Ti avevo detto di stare alla larga. Mi annoiavo. E non ho voglia di fare la brava mogliettina di un paesano che gira lo stufato sul fuoco. Io sono nata zingara e indipendente, amico mio. T'avevo detto di lasciar fare a me, tu non devi esporti. Sì, me l'avevi detto, ma io non accetto ordini. Non sono la tua schiava, sono Carmen e nessuno deve dirmi ciò che devo fare. Faccio quello che voglio. Se ti vergogni di me, trovati un'altra donna. Tutti i passeggeri affermano che lei minacciava la hostess. Non la stavo minacciando, cercavo di mettere il mio bagaglio nello scomparto sovrastante. Si è comportato come un pazzo e l'ha minacciata con una bomba. No, ho detto che non avevo una bomba. Ha detto bomba. Ho detto non è che ho una bomba. Ha detto bomba su un aereo. Che male c'è a dire bomba su un aereo? Non si può dire bomba su un aereo. Bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Vuole arrestarmi? Ha aggredito un impiegato della compagnia aerea e questo è un reato federale. Ce n'è abbastanza per metterla dentro per qualche anno. Bene, allora eccoci con Daniele Dezzi, curatore dell'evento Cinematic Boat People, che si svolgerà qui a Roma sabato 23 maggio. Daniele, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie Federico, ciao a tutti. Di cosa si tratta? Allora facciamo un passo indietro, prima parliamo della realtà che ha dato vita a questo evento. Esatto, innanzitutto Cinematic Party, non People. L'idea fondamentalmente è venuta perché sono qualche anno che organizzo alcuni festival di cinema indipendenti e ho deciso di cercare di creare un evento un po' più informale, dove convogliare sempre le stesse persone che frequentano l'ambiente cinematografico, ma per farli discutere in una situazione appunto più allegra e informale, mi ripeto di nuovo. Questo è fondamentalmente, abbiamo fatto questa chiamata e effettivamente abbiamo avuto un ottimo riscontro, perché avremo da taxi driver a Cineama, diverse media partnership nel settore cinematografico e abbiamo coinvolto gli studenti di cinema dello IED piuttosto che Associac Distribuzione Indipendente per proiettare dei cortometraggi. Ci sarà una collaborazione con Fake Wedding, che sono dei pazzi che organizzano dei matrimoni fake, appunto, che hanno creato un contest a stile Star Wars per regalare dei biglietti dell'anteprima di Star Wars e faranno, non ne parliamo tanto, una sorpresa, una diciamo, sorpresa. Appunto sabato sera. Ci sono diversi registi e attori che verranno a promuovere face to face i loro film che stanno cercando di produrre in crowdfunding. Insomma, questo è l'ambiente che si è andato a creare. Sì, senti, questa realtà a cui hai dato vita, ecco, è un referente per diversi cineasti indipendenti? Assolutamente sì, ma non solo per loro, ma anche per tutti gli appassionati di cinema. Cioè, l'idea principale è stata quella di creare una serata, non discoteca appunto, perché si ballerà le colonne sonore del cinema. Abbiamo Gianca Le Velvet e Lucchetti, che è un giornalista e speaker come te, che hanno creato tutta una playlist anzi sarà un DJ set ovviamente live, di canzoni prese dalle colonne sonore storiche del cinema. Senti, invece per quanto riguarda i materiali che vi arrivano, avete già un archivio fruibile? No, veramente no, perché ne ho tutto quanto nelle ultime due settimane fondamentalmente. Quindi è neonata veramente questa? Assolutamente sì. Senti, è stato un po' uno... Sì. L'idea di fondo qual è allora per farvi conoscere? È questo appunto, cioè cercare di creare un nuovo circolo lontano dai fasti dei festival. Sì. Parlo di Cannes ovviamente, come anche in realtà di realtà molto più piccole che abbiamo anche qui a Roma, dove diciamo c'è un ambiente un po' più lasciami il termine snob, in cui si parla di cinema e in cui ci si confronta nella realtà del cinema indipendente romano e italiano, comunque sia. Senti, e per quanto riguarda un eventuale circuito distributivo, insomma, per farli vedere questi lavori? In realtà siamo appoggiati appunto in distribuzione. La prima collaborazione è nata con Cristiano Anania di Attociac Distribuzione Indipendente, che ci ha proposto alcuni dei suoi cortometraggi, che già fa girare per festival appunto. La situazione lì sarà totalmente diversa, perché il proiettore è puntato sull'argine del Tevere, quindi è un'atmosfera assolutamente suggestiva. Saremo seduti sopra il terrazzo di questo barcone a vedere i cortometraggi che ci ha proposto lui e alcuni studenti appunto di cinema dello IED. Quindi è legata ad eventi che organizzerete con una certa cadenza, immagino. Vedremo come che risposta. Questa prima saranno, risposta. Certo. Senti, i riferimenti internet per la serata, ma anche su questa nuova realtà. Tutte le informazioni le stiamo promuovendo sulla fanpage Cinematic Party, e nascono poi dalla fanpage iniziale, che è quella che parla di cinema già da qualche anno in realtà, che si chiama Cineasta Indipendente. Cineasta indipendente. E ecco, avete anche delle vie scritte per promuovere la vostra attività, nel senso delle fanzine online o qualcosa del genere? C'è Taxi Driver, che è la prima che si è appassionata al progetto e ha già fatto uscire le pubblicazioni, e ci seguirà durante l'evento e dopo l'evento appunto, e diverse webzine appunto del settore cinematografico. C'è da dire quelle che non sono a Cannes in questo momento, fondamentalmente la maggior parte degli amici e collaboratori fino a domenica saranno a Cannes ancora. Senti, rispetto al materiale che vi arriva, con quali criteri operate le scelte? Ma guarda, in realtà non abbiamo fatto neanche c'è stato un contest o quant'altro, quindi... è stato un passaparola. Quindi quello che è arrivato sarà proposto, insomma. Sì, no, chiaramente abbiamo selezionato le cose che ci sembravano più attinenti alla serata. Okay, ovviamente okay. Non pensavamo di proiettare dei film troppo seri fondamentalmente o impegnati, perché la situazione comunque non lo compete, non siamo dentro un cinema in questo caso. Sì. No, delle commedie molto leggere, dei cortometraggi brevi appunto, e poi si tratta di video arte, installazioni e il DJ set appunto, che è la cosa fondamentale, piuttosto che live di Pigi, che sarà un live electro swing e death manouche. È una serata molto particolare, diciamo. Sì. Senti, più o meno quante sono le opere che proponete sabato? Proietteremo 7 cortometraggi, dalle 9 alle più o meno alle 11, poco prima. Ah, quindi un paio d'ore di cortometraggi. Esatto. Bene, bene. Allora, ripeti, Daniele, i riferimenti internet per saperne di più di questa serata. Tutte le informazioni per venire sabato sono sulla fanpage Cinematic Party. Bisogna mettersi in lista solo per assicurarsi l'ingresso, che comunque sono 5 euro. Quindi ingresso popolare. Esatto. Bene. Daniele, io ti ringrazio, in bocca al grazie lupo. Grazie dello spazio. E grazie, magari lupo, Federico. Ci sentiamo per le prossime puntate. Senz'altro, ti ringrazio molto. Buona giornata. Ciao anche a te. Ciao Federico. Daniele Dezzi, curatore dell'evento Cinematic Boat Party a Roma il prossimo sabato 23 maggio, dopodomani. Siamo in collegamento con Luigi Cutore, regista del documentario I Am the River, che sarà proiettato qui a Roma al piccolo Apollo 11 il prossimo 21 maggio, che è proprio oggi. Luigi, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie, ciao a tutti. Tra l'altro, come hai potuto vedere, spero, ho dedicato la copertina della puntata di questa settimana proprio al tuo lavoro, con un fotogramma di scena. Ho visto subito ieri quando me l'hai detto. Io purtroppo vi faccio una grossa confessione, non vi ascolto molto la radio. Però è fissa su Radio 3 e per pigrizia sento sempre Radio 3, poi non vi ascolto, però ogni tanto mi è capitato di ascoltarvi. Bene, bene. E allora, I Am the River, parliamo di questo lavoro, intanto come ha avuto origine? Allora, ha avuto origine perché, senza raccontarvi tutta la storia della mia vita, però io ho vissuto tanto all'estero, ho vissuto tanto prima in Australia e poi in Nuova Zelanda in questi ultimi 10 anni, dove ho un rapporto di familiare, ho un figlio che viene lì e ho iniziato anni fa, circa 10 anni fa, a fare a passare a vivere lunghi periodi. Ho fatto un primo film, poi ne ho fatto un altro un po' più lunghetto e poi nel 2004 sono venuto a conoscenza, e lì arriviamo a End the River, di questa storia, perché c'è una bellissima libreria a Auckland d'arte, molto bella, dove io vado sempre a spulciare, e per me le librerie sono spesso delle fonti di ispirazione, e trovo nascosto, poi capirete perché, trovo nascosto un libricino molto piccolo che parlava di questa collezione Partington, in questo libro, appunto un libretto, c'erano anche alcune foto di questa collezione Partington, ma questo è un passaggio successivo alla storia, perché nell'introduzione spiegava della scoperta di questa collezione. Mi ha molto interessato, perché quando ho iniziato a fare la solita ricerca che si fa con i documentari, mi sono trovato di fronte a un materiale enorme da molti punti di vista. Praticamente cosa vengo a sapere? Che nel 2001, credo, adesso non ricordo più le date, era una signora bianca, diciamo, che vive in una piccola cittadina a nord di Auckland, scopre, mettendo a posto la casa della madre, scopre una grande valigia. Dentro questa valigia ci sono circa 900 tra stampe e negative play, come lastre fotografiche di foto di Maori. La signora avrebbe anche buttato la valigia, perché come lei stessa ha detto a un certo punto, dice, erano soltanto foto di Maori, non rendendosi conto dell'enorme valore che invece per caso viene notato da questo grossissimo mercante d'arte di tutta la zona del Pacifico, questo Peter Webb, che appena vede la collezione letteralmente impazzisce. Perché? Perché queste sono tantissime foto tenute molto bene, molto belle, cioè fatte da un grande fotografo, di cui la signora che trova le foto è la bisnipote, ma aveva interrotto tutti i rapporti con quella famiglia lì, quindi non sapeva nulla. E il fotografo è questa collezione, che fu chiamata poi Partington Collection, perché il fotografo si chiama William Partington. Non si è saputo più nulla. Il fotografo è morto negli anni 40, non si è saputo più nulla. Io addirittura sono stato a vedere la sua tomba e l'avevano spostata, non c'era più dove ho avuto una brutta fine il suo fotografo. Però la potenza di questa collezione ha un grossissimo valore artistico, perché le foto sono molto belle, antropologico e storico, perché sono state scattate da questo William Partington all'inizio del Novecento, perché lui a un certo punto lasciò Auckland, lui era bianco pure, lui ha lasciato Auckland, è andato a vivere a Whanganui. Whanganui è sia il nome di una città che di questo fiume bellissimo, meraviglioso, che va avanti per chilometri e chilometri al sud dell'isola del nord della Nuova Zelanda. Cosa succede? Lui ha passato questi 10 anni e ha fatto tutte queste foto, sia per lavoro, perché lui era un fotografo, e quindi c'è una parte della collezione, sono foto ci siete ancora? Ho sentito un bip? No, ci sono. Sono delle foto che ritraggono i Maori nel suo studio con dei fondali, proprio una classica foto dell'esotico, no? Di chi ancora in quegli anni aveva era la ricerca degli ultimi, tra virgolette, selvaggi, e quelle sono quelle che lui commercializzava e vendeva, ma sono comunque bellissime, ma sono strane, perché già i Maori a quell'epoca non vestivano più con i vestiti tradizionali, e lui li ha un pochino, come era uso, gli ha fatto mettere i vestiti tradizionali, ma a volte sono anche messi storti, perché nessuno più sapeva come si mettevano i vestiti tradizionali. E poi c'è invece una grande parte della collezione che tratta invece di foto documentaristiche che noi, cioè si è venuto a sapere facendo questa ricerca che lui non le non erano commerciali, cioè non erano, lui non le vendeva queste foto, le ha fatte per una sua ricerca e sono molto belle perché ritraggono i Mavi in quel periodo dal documentaristicamente, e vediamo tutto un aspetto che ovviamente né il governo neozelandese né gli inglesi né i bianchi nell'Occidente voleva far vedere, perché i Maori in quegli anni lì stavano molto male, morivano di fame, ne sono morti tantissimi perché ci sono state le guerre, si sono alleati, lo stesso Whanganui ha formato due grossi eserciti contro o a favore della corona. Gli inglesi hanno introdotto i fucili, quindi e hanno ovviamente, come si sa, introdotto tante malattie di cui loro non avevano anticorpi. Quindi lui mostra questa cartolina del buon selvaggio, diciamo così, e contemporaneamente invece la condizione vera. Per farla breve, fermatevi perché io vado avanti delle ore, perché a un certo punto mi fatemi un segno. Cosa succede? Che il Peter Webb, il mercante d'arte, vede la collezione che ha un grandissimo valore, e io ho imparato anche facendo il documentarista che se tu trovi un oggetto ha un valore, se tu trovi tanti oggetti che fanno parte dello stesso gruppo il valore diventa immenso. Passa un anno, perché del fotografo si prepara poco, a catalogare le foto, fa una ricerca, pubblica un catalogo e prepara un'asta invitando i collezionisti, i musei da tutto il mondo che attendono questo evento, perché è stato proprio è stata una vera e propria scoperta. Cosa succede? Il giorno prima dell'asta, una signora, mentre fa colazione a Whanganui, vicino a Whanganui, vede il giornale e si strozza perché vede la foto di una sua zia che pubblicizza l'asta. Chiama la figlia, che ha lo stesso nome della zia, perché per loro, vabbè, il loro rapporto con i loro antenati è molto forte, loro li considerano come se fossero vivi, ci parlano, hanno sempre delle immagini in casa, continuano a raccontare le loro storie e tutti le sanno, e quindi dicono: ma cosa ci fa mia zia lì che pubblicizza l'asta? E quindi la signora chiama la figlia, che porta lo stesso nome, quindi la stessa responsabilità dell'antenata, e col fratello anche, che è il fratello della ragazza, partono in macchina insieme a un famoso politico Maori, e partono, vanno a Auckland di corsa in macchina, ci sono circa 700 km, per bloccare l'asta, pensando di bloccare soltanto, di recuperare la foto della loro zia, non sapendo che lì si trovano altre 900 circa foto, tra foto e lastre, e quindi si assumono questa responsabilità per tutta la comunità di Whanganui, che è enorme, e fanno una delle loro famose, perché loro sono famosi per fare queste azioni che ormai sono anni, che sono azioni politiche, sono un po' rituali, e comunque riescono a ottenere delle cose. In questo modo riescono a bloccare l'asta, anche se avevano già venduto 3 lotti. Lì succede un parapiglia, il signor Webb e tutti i suoi soci non sanno cosa fare e annunciano la fine dell'asta. Passa un po' di tempo, diciamo, tutta la comunità investendo, facendo delle riunioni che sono durate degli anni, perché loro sono molto, sono un po' lenti, ma nel senso che fanno le cose con molta attenzione secondo il loro punto di vista, sono riusciti a portare tutta la collezione indietro ai loro antenati, come dicono loro, a casa, e da lì poi hanno fatto una mostra con questo Whanganui Museum, che è un museo molto carino della zona di Whanganui. E quindi questo, il film racconta praticamente il passaggio di mano delle foto, quindi dalla scoperta casuale alla mostra, ed è una scusa per raccontare, c'è un assunto che è quello di chi sono le foto, no? Perché per il mondo occidentale le foto sono di chi le fa in qualche modo, per loro invece le foto appartengono a chi, alle persone che sono state ritratte. E quindi, insomma, il film racconta questo, ci sono tutte le parti, nel senso che ci sono quelli dell'asta, quelli il web, c'è la signora, ci sono i vari i vari, alcuni, purtroppo non tutti, alcuni dei discendenti delle persone ritratte nelle foto, che raccontano, fanno dei racconti legati appunto al loro, ai loro antenati, che loro chiamano Tupuna. Sì, sì, sì. E, quindi questo più o meno, non so se ho risposto sì, in modo molto chiaro, Luigi. Volevo chiederti una curiosità rispetto al materiale fotografico, l'area geografica interessata e gli anni di inizio secolo scorso che racchiudono queste foto. Sì, dunque, da premettere che lì è stato parte di un grosso lavoro di ricerca che ha iniziato prima Webb. Il fotografo non ha lasciato nulla, cioè le foto erano alcune firmate, ma anzi quasi tutte, le stampe erano firmate, ma il resto no, e non si sapeva niente. Comunque si è riuscito a ricostruire che Partington ha vissuto dalla fine dell'Ottocento, credo dal 98-99 forse, ha vissuto per una decina d'anni, fino al 1912 a Whanganui. Sì. Le foto della collezione sono tutte scattate in quella zona, e sono sia foto appunto, a parte quelle foto che dicevo, la cartolina che lui vendeva in studio, ma se no quelle documentaristiche sono tutte scattate lì in quell'area lì, quindi sono persone, il fiume, c'è il fiume che è molto bello e molto protagonista, la vita nel fiume, perché per i Maori, ma tuttora adesso il fiume ha un valore molto importante per loro. Pensate che io ogni cosa che ho dovuto fare con i Maori all'inizio era un po' friggevo, perché noi che facciamo questo lavoro sappiamo che ogni secondo è denaro. Io all'inizio friggevo perché ogni cosa, che ogni chiesa, poi in realtà loro non sono delle vere e proprie chiese, si chiama Marae, ogni Marae dove dovevamo andare, ma soprattutto quando noi siamo andati a girare al fiume, noi dovevamo, come dire, avere una benedizione, che voleva dire che noi facevamo tutti i giorni, a seconda dei posti, io sono stato, ho girato purtroppo per pochi giorni rispetto a quello che è l'amore del film, quindi andavamo di corsa come dei treni, ma ogni giorno più o meno dovevamo fare questo rituale che appunto ci dava a noi, ci accoglieva noi e ci metteva in contatto con il fiume piuttosto che piuttosto che la casa, piuttosto che la chiesa. Tant'è che io uno di questi rituali che è vero, cioè c'è una, a un certo punto del film c'è una scena dove noi siamo riusciti in qualche modo a filmare, un po' a fatica perché era vero appunto, la nostra accoglienza in quel Marae, in questo luogo sacro per loro, e lì l'abbiamo filmato. Quindi ogni cosa era così. Io all'inizio ero un po' preoccupato, dopo invece ho capito che è diventato un modo intanto per accorciare i tempi, perché una volta che ti accetta un gruppo poi ti accettano tutti, c'è come una specie di tam tam, e infatti il film a loro è piaciuto moltissimo, a tutta la comunità, loro sono molto contenti del punto di vista, che comunque è un punto di vista che è molto aperto, nel senso che io pongo due appunto la questione di chi sono queste foto, è il tema che sta alla base del film, però poi insomma racconta quello che è la verità, ovviamente quando uno fa dei film poi ha sempre un punto di vista, è chiaro che però loro sono molto contenti, e alla fine poi di queste cose, che sono delle cose che erano un po' ridicole, che ogni tanto pensavamo di perdere tempo, invece poi in realtà il tempo l'abbiamo recuperato moltissimo, e abbiamo noi della troupe, che eravamo pochissimi, perché eravamo io, il fonico, il direttore della fotografia e un assistente che di produzione che faceva tutto, quindi eravamo in quattro. Anche se appunto era una produzione che ha preso i fondi da questo New Zealand On Air, che è uno degli uffici del cinema più grossi, anzi il più grosso devo dire, della Nuova Zelanda, con una casa di produzione, questa Razor Film, però noi comunque, e quindi c'era anche un budget normale, che noi in Italia non ce lo sogniamo neanche di fare dei documentari in genere con quei budget lì, ma tutto sommato, siccome ci sono state fatte tutte le cose per bene, poi siamo stati molto, e poi devo dire che lavorare in quattro è stato anche utile per essere perché si è molto più agili se vai a casa delle persone, insomma. un po' più semplice, instauri dei rapporti molto più profondi, che non è male come cosa. Senti Luigi, quindi più o meno questo. Allora, ricordiamo questo appuntamento al Piccolo Apollo 11 qui a Roma, e questa sera alla tua presenza proiezione del documentario I Am the River. E l'orario è alle 21? L'orario è alle 20:30. Poi, come succede sempre all'Apollo, un pochino c'è almeno un quarto d'ora di chiacchiera e poi credo che la proiezione sia almeno un quarto d'ora, però diciamo che ufficialmente sull'invito è 8:30. Benissimo. 20:30. Allora, ti ringrazio, un abbraccio e a presto. D'accordo, grazie mille a voi tutti. Ciao. Grazie, ciao. Luigi Cutore, regista del documentario I Am the River al Piccolo Apollo 11 questa sera alle ore 20:30, e sempre al Piccolo Apollo 11 a questo punto prendo lo spunto per la prossima proiezione, che è martedì 26 con un lavoro di Roberto Minervini, The Passage del 2011, un lavoro che precede quello che invece sta presentando oggi, questi giorni, al Festival di Cannes, e che sarà in sala da giovedì prossimo, che è 28 maggio, che si titola Louisiana. E proprio a questo proposito, giovedì prossimo dovremmo avere ospite Roberto Minervini, quindi c'è questa doppia proiezione questa sera con I Am the River di Luigi Cutore, che abbiamo appena sentito al telefono, mentre martedì sarà la volta di Roberto Minervini con The Passage del 2011. Senti carino, se vuoi chiamare la polizia chiamala, ma poi ricordati che sono un branco di falliti impotenti. Oh. Ok? Un gruppo di figli di puttana ubriachi ingaggiati dal cartello della droga di quel posto si presenta nella mia stanza d'albergo e minaccia di farmi a pezzettini. E io gli dico: sentite, hombres, ok, sono in minoranza. Siete 4 contro 1 e mi farete fuori qui stasera, e nessuno in questo mondo offuscato si accorgerà della mia scomparsa. Ma a uno di voi caverò un occhio. Eccoci con Anna Reiter, regista del documentario Repubblica Libera dello Zen, che sarà presentato domani alla Casa Internazionale delle Donne qui. No, sabato. Sabato. Scusa, ho sbagliato. Quindi sabato 23. 23, io ho segnato il 22, c'è un errore, lo correggo subito. C'è un errore, lo correggiamo subito. Benissimo. 23 ore 21. Allora, raccontaci un po', Anna, di questa avventura. Di certo. Cosa si parla? Allora, questo documentario è stato scritto, prima di tutto vi dico insomma questo, è stato scritto da me, da Vincino Gallo, da Ciccio Lalicate e da Mariana Bartocelli, ed è dedicato a Salvo Licata, che è stato un grande giornalista dell'Ora di Palermo, è stato un grande scrittore, autore di teatro, sua è La ballata del sale con Rosa Balistreri, insomma, ed è stato soprattutto il cantore di Palermo, della città nera, di una Palermo buia, sguaiata, perdente, di queste città, ed è lui che ha raccontato per prima lo Zen, ecco perché questo documentario è dedicato a lui. Il documentario racconta appunto la storia dello Zen, che Zen vuol dire zona espansione nord, ed è uno dei cosiddetti quartieri satellite, quelli alla periferia di Palermo. Racconta quindi il documentario la storia di un'occupazione delle case degli anni 70, insieme a una storia attuale di oggi, di un'occupazione di oggi, di un gruppo di persone, ma in particolare di un omino, insomma, che chiamato l'americano, che continua ad occupare le case insieme alla moglie, alle figlie, insomma, e quindi queste due vicende incrociate. La storia dell'occupazione degli anni 70 è molto significativa, anche perché fra l'altro è stata una vittoria, insomma. l'occupazione degli anni 70 parte proprio da un articolo di Salvo Licata in cui raccontava questa storia di degrado estrema. Nell'articolo si parlava appunto di questo luogo assurdo, perché in realtà lo Zen 1, adesso definito Zen 1, era un, che posso dire, luogo, non luogo, non mi piace la parola, ma insomma diciamo così, era un posto incredibile, non c'era nulla, assolutamente nulla. C'erano solo detriti, mucchi di immondizie, che so, ad esempio delle vere e proprie trincee si scavalcavano per arrivare in questo, e c'erano dei palazzoni buttati lì in mezzo a niente. Mm-hmm. E questa era la situazione, non c'erano strade, luce, acqua, non c'erano tantomeno scuole, ambulatori, insomma c'era proprio il niente. E la gente aveva occupato queste case sull'onda appunto del terremoto degli anni 70, e erano crollate le case nel centro di Palermo ed erano arrivati in questo luogo. E dopo questo articolo, insomma, ci fu un vero e proprio movimento, insomma, tantissime persone andarono in questo quartiere, attori, giornalisti, studenti, e c'era la volontà da parte degli occupanti di rimanere in questo posto, assolutamente di rimanerci, di farne una casa, di fare la propria abitazione. Mm-hmm. E quindi, insomma, c'è tutta questa vicenda che viene raccontata nel documentario, fino appunto al momento in cui c'è stata, diciamo, un'occupazione formale, insomma, dell'Istituto Case Popolari, e quindi un accordo con l'Istituto Case Popolari, tant'è vero che le persone che occupavano allora ancora stanno in questo posto e l'hanno comprato la casa, insomma, quindi. E poi c'è appunto l'altra storia, che è questa dell'occupazione, diciamo, di oggi, invece, di quello che è Zen 2, che è stato costruito da Gregotti, e la storia di questo omino, insomma, che continua ad occupare case, ma insomma alla fine non è che riesce a ottenere molto, insomma, quindi c'è queste due storie incrociate. Ecco, proprio a proposito di questo parallelo, volevo chiederti, Anna, cosa è cambiato nel corso degli anni nella periferia di Palermo rispetto al diritto all'abitare? Parecchio, oserei dire parecchio. Negli anni 70 ho la sensazione che ci fosse un movimento, insomma, qualcosa di profondo e di molto forte. Tant'è vero che quella fu una vittoria, insomma, a cui partecipò anche Peppino Impastato. Infatti nel documentario c'è un'intervista di Giovanni che racconta, insomma, le battaglie dell'acqua per i servizi, appunto, di Peppino. Ma c'era questo movimento, e secondo me, insomma, un movimento non esiste adesso, cioè ci sono situazioni così sporadiche. Non c'è una vera coesione, insomma, quello che abbiamo notato noi, appunto, noi raccontiamo appunto la storia di questo omino. Senti, le condizioni di vita rispetto, ecco, agli anni 70? Direi peggiorate. Nonostante, voglio dire, l'inizio, che dico appunto che era una cosa, non c'era nulla assolutamente, però peggiorate, perché insomma Zen 2, cioè Zen 1 ha un'entità ben precisa, insomma, che sono gli occupanti di allora, che vivono che hanno problemi, ma insomma comunque sia c'è un'identità abbastanza precisa. Zen 2 invece no, è molto frammentaria la situazione, è piuttosto difficile. Senti, Anna, allora sarà presentato questo tuo lavoro, alla tua presenza, alla Casa Internazionale delle Donne, sabato 23, a questo punto ho cambiato anche sul sito. Sì, sabato 23, data, ore 21. Ore 21, e per saperne di più in rete hai un tuo spazio? Sì, beh, andando su Repubblica Libera dello Zen ci sono diverse, l'abbiamo presentato già in diverse situazioni, per cui insomma sì, c'è. Si può vedere, insomma, di che cosa si tratta, Comunque alla presentazione sarà presente anche Vincino Gallo, Vincino il male per intenderci, insomma, non so se credo che insomma in diverse persone lo possano conoscere. E poi Letizia Caudullo, che è la montatrice, un astro d'argento, insomma, siamo molto orgogliosi, insomma. Anche perché c'è stata la supervisione di Costanza Quatriglio, insomma, del documentario. La nostra conoscente molto frequente su questo. Sì, beh, Costanza è una grande. E quindi Letizia, infatti, fra l'altro, è la sua montatrice proprio di. Sì. Quindi. Bene, allora salutaci Costanza, Anna, ci sentiamo presto. Certo, presto, e vi aspetto soprattutto. Bene. Sabato 23 ore 21. Un abbraccio Anna e a presto. Grazie a voi, arrivederci. Anna Reiter, regista del documentario Repubblica Libera dello Zen, alla Casa Internazionale delle Donne, sabato 23 maggio. Stai facendo un enorme sbaglio, non lo sposare quello, non devi sposarlo. Ma che stai dicendo? L'altra notte io ho fatto un sogno ed era molto reale. C'era tua madre e anche tua zia Estelle. E c'era anche... beh, non era proprio un'astronave, era più come una sfera, una specie di disco volante. E da lì venivano fuori delle strane creature che volevano portarti via. E vuoi sapere una cosa? Avevano tutte la faccia di Randall, non è forse chiaro? E io facevo di tutto per salvarti. Ok, d'accordo, calmati. Tu sei un pochino agitato adesso e la mamma non è qui per farti calmare, perciò... No, questo non c'entra. Io ti supplico di non sposare quel Randall. Questa è New York, signore, dove può succedere di tutto e di più. Potrebbe essere un terrorista, una bomba, un cadavere, una sparatoria, un accoltellamento. E poi oggi è venerdì, giorno di paga. Magari qualcuno che non l'hanno pagato si è buttato io di sotto. Io voglio fare shopping. Eccoci con Italo Spinelli per parlare insieme a lui del documentario Candles in the Wind alla Casa Internazionale delle Donne. Allora a questo punto dacci la data, Italo, perché prima abbiamo sentito Anna Reiter per Repubblica Libera dello Zen, abbiamo sbagliato di un giorno, quindi questa proiezione quando sarà? Oggi. Benissimo. Oggi allora, alle 6, ho segnato bene. Ho la segnato Casa bene. Delle Donne, Via della Lungara. Ben ritrovato. Per chi può, da non perdere. Intanto ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie infinite. Allora, Candles in the Wind, tu sarai a presentarlo. Cosa racconta questo lavoro? Ma dunque, è un documentario di grandissimo valore di Nandan Saxena, che è il regista e anche ha curato la fotografia, e di Kavita Bal, che è una ricercatrice, regista e sceneggiatrice, e un po', diciamo, è ambientato, si svolge in Punjab, quindi quella regione ad ovest divisa tra il Pakistan e l'India, quella che una volta era considerata la riserva verde, diciamo la zona appunto più verde e florida dell'India dal punto di vista dell'agricoltura, e che poi dall'inizio degli anni 60, che era appunto famoso il movimento del Green Revolution, questo Green Revolution poi si è dimostrato in qualche modo fatale per la popolazione contadina, in particolare femminile, nel senso che le condizioni e di lavoro e di espropriazione dei terreni che c'è stato ha portato poi all'indebitamento dei contadini, e negli ultimi anni ha raggiunto 7.000 casi di suicidi avvenuti nella zona per l'indebitamento che c'è stato. E un po' su questo è centrato, e non solo su questo, ma diciamo il cuore è intorno a questo del documentario Candle in the Wind. Quindi un disastro economico dal punto di vista agricolo, ma anche della condizione della donna, quindi due grossi danni per la società della zona. Assolutamente, assolutamente. Cioè, e poi appunto c'è diciamo, da quello che era la Green Revolution, che era considerata appunto la zona più verde, il Punjab, eccetera eccetera, poi invece ha raggiunto invece la cronaca, i giornali eccetera, per i casi, appunto 7.000 casi di suicidi per indebitamento, ed è diventato quindi l'opposto di segno, quello che era il granaio dell'India è invece diventato, diciamo, un po' un cimitero. Senti, che tipo di lavoro è stato fatto nel documentario? È un lavoro, appunto, naturalmente è un documentario, non c'è finzione, sostanzialmente è basato su interviste per spiegare tutto ciò e come è avvenuto e come si è deteriorata la situazione attraverso, dicevo, appunto, molte interviste, racconti dal vivo, mostra la natura, il lavoro che viene svolto dai contadini, e soprattutto, diciamo, rivolgendosi a donne che lavorano e che poi sono quelle che mantengono, insomma, i pilastri di quel tipo di economia, perché non solo per l'aspetto, diciamo, del lavoro che c'è stato delle donne, come lavorano nei campi, le condizioni in cui lavorano e le condizioni, diciamo, che a un certo punto sono diventate di sopravvivenza, e poi sono gli uomini, la maggioranza, che hanno compiuto suicidi per, appunto, l'indebitamento che provoca questa situazione all'interno del Punjab. Senti, ci sono movimenti o associazioni o comunque strutture che si muovono sia per i diritti delle donne che degli agricoltori? Assolutamente sì, assolutamente sì. Ci sono, cioè, il movimento verde in diciamo l'equivalente del movimento verde in India, cioè un'estensione, appunto, in tutto il subcontinente, ha avuto grandissime battaglie per la sostenibilità, per quanto riguarda le acque, per quanto riguarda i fiumi e per quanto riguarda la terra, battendosi contro l'espropriazione, soprattutto lo sfruttamento da parte di varie industrie che con la connivenza delle volte dei governi locali, per modo di dire, nel senso che sono stati, ottenevano per pochissimi denari il fatto di poter sfruttare quelle terre senza fare i conti con chi ci viveva. Comunque c'è un movimento fortissimo di opposizione, di resistenza, che in parte ha avuto dei riconoscimenti e dei successi, per esempio sul fiume Narmada e altre grandi battaglie che per decenni si sono svolte in Punjab. Non è risolto, ma appunto il documentario racconta proprio questo, la resistenza e la nascita del movimento. Sì, sì. Senti, Italo, su internet ci sono degli spazi riservati a questo Candles in the Wind? Sì, si trova, non credo che si trova tutto il documentario, però delle sequenze ci sono, però non so dirti il riferimento. Sì, purtroppo non lo so, e appunto ripeto, l'occasione sarebbe, essendo poi presente Nandan e Kavita, esatto, a riuscire a raggiungere la Casa delle Donne oggi alle 6. Benissimo, allora ricordiamo l'appuntamento alle 18 di oggi alla Casa Internazionale delle Donne qui a Roma. Ci sarai tu, ci sarà l'autrice, insomma. Sì, ci saranno entrambi, l'autore e l'autrice. Benissimo. Che sono marito e moglie. Marito e moglie. Italo, lavorano a tanti altri documentari, ed è un'occasione per vederla, perché insomma sarebbe stata una selezione presente ad Asiatica, però Asiatica non so se faremo più una nuova edizione, e quindi vanno colte tutte le occasioni, perché sicuramente sono stati un po' strangolati. Immagino quello che succede, quindi chissà se ce la faremo. Ho dei dubbi, ma insomma. Italo, un abbraccio e alla prossima. Anche a te forte. grazie, a presto. Ciao. Italo Spinelli per il documentario Candles in the Wind. Sono pronti. Però hanno un paio di richieste. Ad esempio? Ecco, ho qualche appuntino. Sì, niente di impossibile. Ecco, ecco, per fare un esempio, Oscar ha delle multe arretrate per divieto di sosta. Vorrebbe che fossero annullate. 56 multe in 7 estati. Sì, sì, glielo sto dicendo, Oscar. D'accordo. Nuna ha due amiche cui vorrebbe fosse concessa la cittadinanza americana senza troppe domande. Max vorrebbe il rilancio dei nastri stereo 8. Non so quanto possa funzionare, però vediamo cos'altro c'è. Chick vuole una settimana del pacchetto imperatore al Caesar Palace. Ah, ecco, non è che potreste dirci chi ha assassinato Kennedy, vero? In collegamento con Anita Bartolini, organizzatrice di Genderotica 2015, contaminazioni di arte queer, che sarà in due spazi qui a Roma, al Nuovo Cinema Palazzo e all'Esc Atelier, e dal 22 al 24 maggio, quindi da venerdì a domenica. Anita, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, parliamo un po' dell'entità Genderotica. Noi siamo sempre favorevoli ad ogni moltiplicazione sessuale, mi è venuta in mente questa formula e quindi parlaci di questa realtà e poi chiaramente andiamo nello specifico sulla parte video che interesserà queste tre giornate. Sì, allora Genderotica è un festival che è giunto alla quarta edizione, lo facciamo ogni due anni, completamente autogestito, autoprodotto, autofinanziato. Noi siamo un gruppo che nasciamo come performer, sperimentando le molteplici identità di genere e la rappresentazione del genere. Genderotica è nato un po' dalla voglia di confrontarsi con realtà artistiche estremamente interessanti all'estero che in Italia non hanno mai messo piede, quindi portando tutte delle vere e proprie premiere, e l'abbiamo fatto perché ci è capitato di stare spesso all'estero con i nostri lavori e ci siamo accorti di quanto c'è fermento al di là dei nostri confini nelle rappresentazioni sulle tematiche di genere. Questo festival cresce un po' nostro malgrado ogni anno sempre di più, e quest'anno, oltre alle performance e ai video, alle mostre d'arte, abbiamo anche veri spettacoli teatrali e una sezione anche cinematografica, mentre prima ci limitavamo a documentari e video. Ok, e quindi parliamo di questi lavori filmati. Sì, allora, quest'anno Genderotica sarà particolarmente erotica, quindi il focus di quest'anno è proprio l'erotismo da tanti punti di vista differenti. Diciamo che nella sezione cinematografica si userà soprattutto il linguaggio del post-porno, quindi di una rappresentazione di commedie, che poi in realtà sono commedie in cui si vede anche molto, moltissimo, commedie pornografiche che raccontano l'approccio, l'erotismo e creano prodotti di pornografia assolutamente fuori da quello che è qualsiasi contesto mercantile della rappresentazione del porno, del corpo, soprattutto ovviamente del corpo della donna. Quindi è un porno autodeterminato. Porno autodeterminato, autoprodotto spesso e volentieri in situazioni in cui sono le donne stesse che scelgono, che decidono, che rappresentano e che decidono come rappresentare il proprio corpo e come rappresentare la propria sessualità. Vi faccio intanto alcuni titoli. Apre il festival venerdì Mommy is Coming di Cheryl Dugne, è una liberiana ed è stata negli anni Ottanta la prima lesbica nera ad avere un film prodotto ad Hollywood. Nel 2012 fa questo primo porno suo, nella sua carriera, che vince subito l'award del porno femminista canadese. Ha debuttato alla Berlinale, ha presenziato a tantissimi festival intorno al mondo, non è mai venuto in Italia. È una commedia assolutamente divertente, sfacciata, dove tutto viene, tutte le sessualità e l'approccio alle sessualità viene rimesso in discussione. Poi abbiamo Marit Osberg. Marit Osberg ha debuttato nella pornografia facendo parte di un film che si chiama Dirty Diaries, un prodotto a più voci di alcuni anni fa, svedese, finanziato dall'Istituto di Cinematografia Svedese, in cui le donne raccontavano il loro modo di sognare l'erotismo, il sesso e la pornografia. In questo caso noi ospitiamo un cortometraggio che si chiama Share, su un amore a tre, e un documentario che lei ha girato con le interpreti del corto, in cui si racconta il valore anche femminista e politico di utilizzare il linguaggio del cinema porno come rappresentazione del femminile e come metodo per andare a scardinare quella che è la mercificazione del corpo della donna. E poi c'è una commedia deliziosa, un film in realtà abbastanza vecchio che in Italia c'è stato, ma che è bello scoprire, Girl King. Questo non entra nella sezione pornografica, ma è un film molto divertente di pirati, di imprese, di avventure, dove una regina ha perso il suo koilos, il suo tesoro più prezioso, che poi sarebbe la sua vagina, e che un nucleo di pirati cerca di riconquistare andando completamente a rompere qualsiasi stereotipo di genere e di rappresentazione, sia eteronormata che omonormata. Ok. Anita, ecco, la curiosità rispetto alla grossa differenza sostanziale tra la pornografia mercificata e il porno autodeterminato è sicuramente il dietro le quinte. Ma c'è e qual è, a tuo modo di vedere, la differenza nella presentazione invece delle immagini? Tu parli a livello di contributo di riflessione politica, tu dici questo? Sì, cioè quello che lo spettatore e la spettatrice vedono, insomma. Certo, allora, il porno è un porno, nel senso che vedranno dei porno a sì. tutti gli effetti. Cambia assolutamente intanto la tipologia di fisicità, perché è chiaro che la comunicazione, quella che siamo abituati ogni giorno dalla pubblicità delle salviette a ovviamente la televisione, ai programmi di intrattenimento, piuttosto che alla pornografia vera e propria mainstream, no? Ufficiale, quella che fa mercato, sì, cassetta, sì. Sceglie un determinato tipo di corpo femminile e fa un certo tipo di rappresentazione stereotipata di quello che è un ideale che viene assolutamente mercificato e assoggettato a un desiderio principalmente maschile. Nella pornografia queer, così come in tutta la rappresentazione erotica o comunque di riflessione sul genere, nel queer i corpi sono molteplici, i corpi sono tutti attraenti, i corpi hanno tutti qualcosa da dire e tutti rivendicano la propria autodeterminazione al di fuori di chi qualcuno gli vuole dire come comportarsi, come prolificare e come stare in un contesto sociale. Sì, sì, per sì, cui sì. Sicuramente sono corpi e sono scene, sono storie che in un porno tradizionale tu non troverai mai, ma perché c'è soprattutto una volontà, non c'è una schiavizzazione del denaro, insomma, nella pornografia queer. Okay. Ci sono veramente altri mercati. È un po' poi la logica di genderotica del nostro festival, sì, cioè fare un festival internazionale con così tante premiere italiane, con così tanti artisti che vengono da tutto il mondo, e farlo senza assolutamente finanziamenti, in una maniera assolutamente accessibile, perché costerà 5 euro al giorno. Cioè, un altro modo per cercare altre politiche culturali. Bene. Con grande fatica, però è una grande scommessa. Anita, io ti ringrazio. Ci lasci i riferimenti per la programmazione? Assolutamente sì, noi siamo al Nuovo Cinema Palazzo Escatelier dal 22 al 24 maggio. Il sito su cui trovare tutte le informazioni è genderotica2015.wix.com/genderotica2015 o su Facebook Genderotica. Un abbraccio e alla prossima. Grazie, buon lavoro a tutti e grazie all'ospitalità. Ciao Anita, ciao. Anita Bartolini, organizzatrice di Genderotica 2015, contaminazioni di arte queer. Questo è il nostro caso, troveremo quel maledetto assassino. Siamo noi, maledetti assassini. E che differenza vuoi che faccia? Il senso morale non esiste. Il senso morale? Il senso morale. Il senso morale nella legge, ma chi te l'ha raccontata questa, la fatina degli avvocati? Come va il lavoro? Eccellente. Ho dei pazienti interessanti, molto interessanti, molto interessanti, affascinanti addirittura. Ha un paziente che è convinto di cacare trote. No, bravo, sei molto bravo. No. Tu sei molto ci bravo. Ci sono un sacco di altri tu problemi. Tu sei proprio bravo. Sì. Posso sbudellarti uno snob cacca sotto in un minuto, signora Laracchia? Oh, questa è la banda di delinquenti che ho sempre sognato per mio nipote. Dulcis in fundo, siamo in collegamento con Chiara Boffelli, curatrice della sesta edizione di Al cuore dei conflitti a Bergamo dal 25 al 29 maggio. Chiara, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico, ciao a tutti e a tutte. Allora, una cosa che mi interessava molto, tra l'altro credo che sia la prima volta che ne parliamo, sicuramente per mia ignoranza, Al cuore dei conflitti, di cosa si parla, Chiara? È una rassegna che è stata ideata dalla Federazione Italiana Cineforum già 6 anni fa, una rassegna che in collaborazione con la Bottanta parte appunto settimana prossima, da lunedì prossimo da Bergamo, e poi ha lo scopo di in qualche modo dare anche un canale distributivo o alternativo a film che sono stati ospitati nei più importanti festival internazionali ma che non hanno una distribuzione italiana. Il filo rosso della rassegna è però quello tematico, del contenutistico, dei conflitti geopolitici. In questi anni quindi abbiamo in qualche modo fatto il giro un po' di tutto il mondo, dalla Palestina al Kurdistan, alle varie aree del pianeta in cui esistono dei conflitti, tutto attraverso ovviamente gli occhi dei registi che raccontano al pubblico i conflitti delle varie aree del pianeta dal punto di vista dei protagonisti, dei loro film. Solitamente la rassegna si compone di 3 lungometraggi di finzione e 2 documentari, e così è anche quest'anno. Senti, quante opere presenterete, da che parti del mondo provengono? Allora, iniziamo lunedì 25 con Luan Desom, che è una sorta di western un po' fuori dal comune, un film che ha avuto un grandissimo successo l'ultima edizione del Festival di Venezia, ha come protagonista Viggo Mortensen, e è un film che racconta il conflitto franco-algerino, è infatti ambientato nel 1954 nell'Algeria occupata che dal governo francese, che nella quale iniziano a esserci i primi tumulti e le prime rivolte contro la colonizzazione appunto francese. Il film poi del giorno seguente, un bellissimo film curdo che racconta proprio dell'occupazione turca nelle terre curde, e la storia è quella di questa donna anziana che col figlio deve abbandonare il proprio villaggio e si trasferisce in una grande metropoli, per lei sicuramente uno spazio non ospitale. Il film si chiama Song of My Mother e è un film che ha vinto il primo premio, come miglior attrice e miglior attore a Sarajevo, e è freschissimo il primo premio al Festival di Lecce proprio di qualche settimana fa. Un film a cui tengo particolarmente, Asier e Tavioca, Asier e io, perché è un'anteprima nazionale, in questo caso è un documentario di Aitor e Amaya Merino. Aitor in particolare è un attore che ha lavorato con i più importanti registi spagnoli, è un attore quarantenne, direi abbastanza affermato, e in questo film con la sorella Amaya Merino si cimenta nella regia perché ha l'urgenza di raccontare la vicenda di un suo amico d'infanzia che si chiama Asier, che è stato un militante dell'organizzazione armata ETA. Asier è stato quasi 10 anni in carcere. Nel momento in cui esce dal carcere, il suo amico d'infanzia Aitor decide di fare un documentario per raccontare le scelte che hanno mosso appunto il militante dell'ETA a compiere questa scelta, e dalle parole dello stesso regista Aitor lo scopo del film è proprio quello di raccontare e cercare di spiegare agli amici madrilegni, appunto, del regista, come mai lui porta avanti un'amicizia con questa persona, e cercare poi ovviamente di entrare nel cercare di approfondire la tematica del conflitto. Questo film, per il quale, essendo un'anteprima poi sicuramente importante anche da un punto di vista della visibilità, per questo film vengono i due registi, Amaya e Aitor Merino, e faranno un paio di tappe per presentare il film. Il 28 maggio, giovedì, sono a Bergamo, il giorno prima a Roma, poi magari diamo i dettagli appunto anche della proiezione romana. Sì. Il ecco. Giorno seguente, quindi l'ultima giornata della rassegna, sì. Vede una doppia proiezione, Felice Meira di Maxime Giraud, presentato tra gli altri festival al Festival di Torino, e poi un documentario invece un documentario molto interessante fatto da un collettivo di registi russi, che in qualche modo danno una prospettiva a 360 gradi di quello che è il fenomeno Putin e dei suoi oppositori di qualunque tipo. È un documentario abbastanza particolare, direi un documentario un po' anche d'osservazione, però riesce a entrare, direi, proprio nel cuore della questione. Mentre Felice Meira di Maxime Giraud è un film a soggetto molto delicato, molto forte anche come vita emozionale, che racconta la vita di una giovane donna nella comunità degli ebrei ortodossi in Canada, e la volontà di questa donna poi di cercare di tentare di uscire da questa comunità che, come possiamo chiaramente immaginarci, molto chiusa e conservatrice. E quindi questi sono i cinque film che compongono questa rassegna. La rassegna, appunto, l'edizione 2015. La domanda sicuramente apre tutto uno scenario rispetto ai ragionamenti da fare, però volevo chiederti, rispetto a questi cinque titoli, in che rapporto sono, visto che poi parlano di diverse aree geopolitiche interessate, tra la liberazione collettiva e il nazionalismo, ad esempio? Allora, direi sicuramente questo è un tema molto, molto caldo per i primi, sì, per i primi tre film. Luan des Hommes, conflitto franco-algerino, Song of My Mother, conflitto turco-curdo, e Asier e Tabioc, invece franco-spagnolo e basco. Sicuramente sono film che raccontano i conflitti da un punto di vista individuale. La liberazione collettiva è, direi, in entrambi i casi uno degli obiettivi. Non si parla, se non nel caso basco, di militanti veri e propri. È proprio un punto di vista del singolo all'interno di una collettività molto più grande, e direi che la cosa che esce in modo abbastanza forte da quasi tutti i film è proprio la prevaricazione e l'impossibilità in qualche modo di ipotizzare un mondo senza conflitti e con una certa con la possibilità di ipotizzare certe prospettive. Sicuramente il caso curdo esce con una come dire, con un cinismo e una sicuramente una grossa difficoltà a immaginarsi una prospettiva differente. Il racconto franco-algerino, chiaramente qua vediamo, sentiamo il nascere delle prime rivolte, e chiaramente lì la collettività, poi la lotta di liberazione nazionale algerina, portò sicuramente a un cambio, e anche il film ci trasmette questa cosa in un registro completamente diverso, ovviamente, per il film curdo, dove possiamo tranquillamente dirlo, c'è una sorta di pessimismo e di ripiegamento, soprattutto perché il punto di vista è quello di una donna anziana e che quindi la prospettiva anche di cambiamento singolo e di conseguenza anche collettivo per lei è molto difficile da intravedere. Il caso Basco chiaramente porta alla luce quello che è l'attuale dibattito, per cui una situazione nuova che si sta vivendo nei Paesi Baschi in questo periodo, con una tregua unilaterale da parte dell'organizzazione armata, e il punto di vista qua è quello di un singolo che sta a Madrid, per cui molto lontano, nella capitale dell'imperialismo, dello Stato occupante, che però cerca di darsi delle risposte per quello invece che sta accadendo nella sua terra natia. I due registi sono infatti originari di Donostia, di San Sebastian, per cui è un punto di vista sicuramente esterno ma molto onesto, che va a raccontare anche in questo caso, però attraverso l'umanità del singolo, l'esperienza del singolo, il loro amico Asier, poi un conflitto molto più ampio ed esteso, che sta vedendo proprio in questo periodo tutta una serie di cambiamenti anche molto, molto forti e molto radicali. Chiara, in chiusura, ci dai riferimenti per saperne di più sulla programmazione su internet? Sì. Per quanto riguarda la programmazione della rassegna Bergamo, si inizierà il 25, le proiezioni sono 25, 26, 28 e 29 maggio presso l'auditorium di Piazza della Libertà alle ore 21. Il sito dove avere tutti i riferimenti è alcuoredeiconflitti.it, e come ti accennavo prima, un importante appuntamento è proprio il giorno, diciamo, di pausa della rassegna bergamasca, dove ci si sposta a Roma il 27, quindi mercoledì 27 maggio, allo spazio Oxygen in via San Tommaso d'Aquino, dove ci sarà la possibilità di vedere il film Asier et Tabioc alle ore 20:30 e alle 19:30 un aperitivo, e saranno presenti anche qui, come poi il giorno seguente a Bergamo, i due registi, per cui sarà possibile anche chiacchierare con loro. L'appuntamento romano è organizzato dall'Associazione Culturale Euskera, Associazione Italia-Nicaragua, e in collaborazione appunto con la rassegna Il cuore dei conflitti. Un abbraccio, Chiara, alla prossima. A presto, grazie a voi. Ciao. Chiara Boffelli, curatrice della sesta edizione di Al cuore dei conflitti a Bergamo dal 25 al 9 maggio, e con lei chiudiamo la puntata settimanale di Visionari. Si torna giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15.